tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. We don't need no thought control. Toda a música que ouviu, pois a que vem a seguir é ainda melhor. No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena, yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundido para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. qué bonita es la venganza. Cuando Dios nos la concede, ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. ¡Ay! Te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Russian blue electric clocks, the alarm bell rings, it will not stop, and I can see no end in sight, and search in vain by candlelight for some long road. Está a ouvir Ouro e Platina. Thing he's found. un volo di gabbiani telecomandati e una spiaggia di conchiglie morte. Nella notte una stella d'acciaio confonde il marinaio. Strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà. Dove arriverà? Questo non si sa. Sarà come l'arca di Noè. Il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia, il suo cuore perde cherosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà. Dove arriverà? Questo non si sa. Sarà come l'arca di Noè. Il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà. Dove arriverà? Questo non si sa. Sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà. Dove arriverà? Questo non si sa. Agora, na sua antena web, Ouro e Platina. Guns in the ground.

Lisa Stone.